Gli speciali di Radio 24. Scuola, quale scelta per i nostri figli? Eccoci qua anche quest'anno a parlare di orientamento, di scuole superiori, a chiacchierare con i nostri ragazzi. Ormai è una tradizione di Radio 24 fare il punto più o meno in questo periodo dell'anno con le iscrizioni ormai alle porte. Dunque è il momento di chiarirsi le idee, come si capisce molto bene dalla girandola di Open Day che le famiglie stanno affrontando in questo periodo. Sì, perché non è davvero cosa facile per chi è in terza media, quindi per chi ha circa 13 anni, decidere cosa fare un po' da grande, no? Districarsi fra i tanti licei, istituti tecnici, professionali, l'offerta è davvero molto ricca. E poi, lo diciamo tutti gli anni, in effetti questa è la prima scelta importante che i nostri ragazzi sono chiamati a fare nella loro vita. E poi, non ultimo, speriamo anche di alleviare un po' l'ansia dei genitori, che a volte davvero esagerano, caricano questo momento di un'importanza forse un po' eccessiva. Allora, noi oggi cercheremo di darvi come sempre una mano facendo ricorso ai nostri esperti, anzi dovrei dire ai nostri amici, quelli che sentiamo spesso quando parliamo di cose di scuola, e cominciamo con il nostro amico Daniele Grassucci di scuola.net. Ciao Daniele. Ciao Piera, ben trovata. Ciao, anche quest'anno allora a darci una mano. Qui in studio con me ci sono altri ospiti e sono Diletta Zali, che arriva da Cremona. Ciao Diletta. Ciao a tutti. Lorenzo Gaudimundo, che viene da Milano. Sono tutti e due ragazzi di terza media. Ciao Lorenzo. Ciao. E poi qui accanto a me abbiamo la prof Marina Ciavarella. Buongiorno. Buongiorno, che si occupa di orientamento alla Scuola Media Monteverdi qui a Milano. L'abbiamo scelta, poi vi raccontiamo perché, insomma, questa scuola pare che funzioni da questo punto di vista. Poi ci racconterà la prof Ciavarella come mai funziona così bene nel dare il consiglio orientativo ai ragazzi. Allora, Daniele, eccoci a te. Tu sei il nostro occhio, dicevamo, sul mondo della scuola. Ricordaci dunque come e quando ci si deve iscrivere. Istruzioni per l'uso. Vai Daniele. Beh, innanzitutto si comincia dal 9 gennaio alle 9, quando sarà possibile registrarsi sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Chiaramente l'iscrizione vera e propria comincerà solamente una settimana dopo, perché si partirà dal 16 gennaio, sempre alle 8 del mattino, quindi insomma da buoni mattinieri al Ministero, e si terminerà alle 20 del 6 febbraio 2017, sempre. Per cui ci saranno solamente 3 settimane per potersi iscrivere, mentre lo scorso anno e negli anni precedenti c'era un mese, quindi molto probabilmente al Ministero si sono resi conto che le cose stanno diventando via via più semplici, per cui hanno ridotto il tempo. Raccontavamo, no? Negli anni scorsi, il primo anno c'è stata qualche difficoltà, poi insomma le famiglie si sono abituate a questo nuovo metodo, iscrizione solo online. In realtà si può ancora ricorrere alle segreterie in caso di emergenza, però insomma sembrerebbe che ormai tutte le famiglie siano in grado di effettuare questa iscrizione online. Sì, assolutamente, anche se dobbiamo dire che stando ai dati ministeriali al centro-nord è una prassi ormai consolidata, 3 famiglie su 4 insomma si sono iscritte attraverso l'iscrizione online in maniera autonoma, mentre al sud ecco non possiamo dire la stessa cosa. La differenza rispetto al passato è che deve farsi carico dell'assistenza alla scuola destinataria della domanda e non quella di provenienza. Quella di provenienza deve intervenire in ultima analisi, comunque nessuno verrà lasciato solo, soprattutto nelle zone terremotate, ecco questo viene ricordato nella circolare in maniera molto, molto chiara. Eh già, per loro non sarà semplicissimo quest'anno, in effetti. Sì, e poi dobbiamo ricordare alle famiglie che non si tratta di un click day. Ecco, la procedura si può iniziare dal 16 gennaio alle 8 e si può completare il 6 febbraio alle 19, non cambia nulla. Ecco, quindi la piattaforma... Non è che il primo che si iscrive al posto in quella scuola, insomma, non c'entra nulla. Assolutamente, assolutamente, perché poi dobbiamo ricordare che in fase di iscrizione va indicata la prima scelta e fino ad altre 2 scelte nell'ordine di priorità, perché qualora ci dovesse essere un sovrannumero nella prima scelta, automaticamente se non si rientra in quella prima si viene slittati verso la seconda e poi verso la terza eventualmente. E le scuole devono aver già deciso e notificato al momento dell'iscrizione quali sono i criteri di selezione, e il MIUR indica che debbono essere ragionevoli, quindi ad esempio nella ragionevolezza non viene compreso il fatto che il criterio possa essere tra il momento in cui è pervenuta la domanda, quindi chi arriva prima a presentare domanda in una certa scuola non gode di una prelazione sul posto. Quindi Questo è molto importante per quindi c'è tutto il tempo, insomma, tre settimane con calma, fare, insomma, è più difficile scegliere poi che iscriversi, insomma. Sì, anche perché una volta terminata la domanda, cioè una volta chiusa in qualche modo, quella diventa un'iscrizione a tutti gli effetti, per cui consigliamo alle famiglie di non prendere sotto gamba la situazione, nemmeno di agitarsi, però ecco, con il giusto tempo completare correttamente la domanda, finalizzarla solo dopo averla controllata più e più volte in maniera tale che la domanda non contenga errori e che quindi poi non crei dei problemi per essere insomma modificata. Certo, le modifiche sono poi complicate da fare. Grazie Daniele, davvero sei stato puntuale come sempre nel raccontarci come si fa. Chiedo ai nostri ragazzi di Radio Immaginaria, per entrare un po' già nel vivo di questa trasmissione, se voi avete già scelto questa famosa scuola superiore che per 3 anni durante le medie, no, se ne parla, eccetera. Avete già deciso? Avete già un'idea? Diletta. Allora, io devo dire che ho un'idea, però non sono sicura, cioè vado a giorni. Ci sono giorni in cui sono più sicura e giorni in cui sono meno sicura. Dipende da come ti alzi. Sì. A volte anche prima di dormire ci penso, ma sarà la scuola giusta. E più o meno ti sei orientata su quali tipi di scuola? Sul liceo artistico. Perché comunque sia, cioè mi piace molto disegnare, mi piace l'arte e basta. Poi come altre scelte non lo so. Quindi diciamo che più o meno hai già deciso l'indirizzo, poi magari bisognerà scegliere quale dei licei artistici scegliere, ma non so se nella tua città ce ne siano. Nella mia città ce n'è uno. Ce n'è uno, quindi c'è poco da scegliere anche lì. Lorenzo, tu che cosa pensi di fare un altro anno? Beh, io ho comunque sia le idee chiare. Bravo. Cioè il liceo linguistico Manzoni. Resti in casa perché la tua scuola media è già inserita in un liceo linguistico. Perché a me piacciono molto le lingue, però ci sarebbe un'altra scuola, il Moreschi, che è una scuola molto buona, che sono andata a vedere e niente, mi piace molto. Sempre liceo linguistico? No, economico e marketing. Economico e marketing, quindi insomma dipende un po' anche da come vanno le cose nei prossimi giorni. Daniele, torno a te perché scuola.net anche quest'anno in collaborazione con Radio 24 ha realizzato una ricerca sull'orientamento. E i dati che ne emergono non sono tanto belli anche quest'anno, perché io mi ricordo che anche l'anno scorso eravamo qui a commentare dei dati che non è che ci piacessero tantissimo. Sì, perché tendenzialmente c'è un tasso di indecisi comunque ai primi giorni di dicembre, quando è stata effettuata la ricerca intorno alla prima decade, che è ancora elevato, il 35% a meno di un mese insomma dall'inizio dell'iscrizione giù di lì comunque è indeciso, per cui ecco, uno su tre è un numero sicuramente importante e purtroppo stagionalmente è sempre così, ecco, arrivati a questo punto c'è sempre questo tasso di indecisi e che non si spiega tanto nel momento in cui l'orientamento dovrebbe essere un percorso che parte da lontano, non dovrebbe essere un qualcosa che avviene last minute, ma un motivo forse c'è ed è proprio il fatto che in alcuni casi mancano le attività di orientamento. Su media nazionale un ragazzo su 4 non ha svolto alcuna attività di orientamento. E la cosa drammatica è che questo fenomeno è soprattutto al sud, cioè al nord questo dato scende a 1 su 10, mentre al sud schizza a 1 su 3. Cioè un ragazzo su 3 non ha ricevuto dalla propria scuola alcun consiglio, non nel senso di consiglio orientativo, quindi quella carta, poi ne parleremo, che ci dice secondo la scuola quale sarebbe la scuola più adatta per noi, ma addirittura non ha svolto alcuna attività che lo aiutasse in questa scelta, è assolutamente questo? Assolutamente sì, è quanto dichiarano i ragazzi. Poi è chiaro che non possiamo fare una correlazione tra la disoccupazione giovanile al sud e la mancanza di orientamento, questo sarebbe un volo binario forse troppo elevato, però è chiaro che se non si effettua una buona attività di orientamento diventa sicuramente più difficile fare delle scelte corrette da un punto di vista di percorso formativo, e poi sappiamo che il percorso formativo può influenzare in una misura anche importante quello che poi sarà il percorso lavorativo. Certo, il margine d'errore comunque aumenta sicuramente se non abbiamo visitato le scuole, se non abbiamo avuto nella nostra scuola, quindi alle medie, persone che ci raccontassero qual è l'offerta, perché davvero l'offerta adesso negli ultimi anni sta diventando particolarmente ricca, lo dicevamo prima, no? Ci sono davvero tantissime scuole, non è come quando andavo a scuola io, forse anche tu Daniele, tu sei più giovane, forse già sì, in cui c'erano veramente poche scuole, il liceo scientifico, il liceo classico, adesso ci sono tantissimi indirizzi anche all'interno della scuola stessa. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme. Scuola, quale scelta per i nostri figli? Il tuo profilo Instagram è molto interessante. Selfie in casa, selfie al mare, selfie al ristorante. Mi parli dei problemi e della tua vita stressante. Vai palestra, l'estetista, giornata pesante. I nostri nuovi filtri dove cambiano le facce. Lingua fuori, in testa fiori e bocca gigante. E della tua foto dove sbocci in discoteca. Aspetta che ti mostro il cane che me ne frega. Allora, riprendiamo a parlare di scelta della scuola superiore. Dunque, dal 16 gennaio, l'abbiamo sentito, partono le iscrizioni, dunque è tempo di decidere. Ma gli strumenti che hanno le famiglie per decidere non sono poi tantissimi, anche se certamente di più di qualche anno fa. Solo qualche esempio. Intanto si può andare a vedere sul web cosa dice Scuola in Chiaro, uno strumento messo a punto dalla ministra Giannini. Approfittiamo per salutarla, ringraziarla per il lavoro fatto. Altro strumento molto utile è quello invece messo a punto dalla Fondazione Agnelli, che per il terzo anno consecutivo ha fatto una mappatura davvero molto puntuale e preziosa delle scuole provincia per provincia, tenendo conto di due criteri differenti: il successo al primo anno di università degli studenti che escono dalle singole scuole e poi, per tecnici e professionali, anche la capacità di inserirsi nel mondo del lavoro. Dunque si può andare su eduscopio.it, il percorso è molto semplice, bisogna cliccare sulla propria città, scegliere l'indirizzo, cioè se liceo classico, scientifico, che tipo di tecnico, professionale, e ci verrà fuori una classifica, anche se è un po' improprio chiamarla così. Possiamo comunque vedere i punteggi ottenuti dalle singole scuole, quindi avere qualche elemento utile per la nostra scelta, ve lo consiglio davvero, davvero caldamente. Allora, scuole migliori, scuole peggiori, sempre difficile. È anche molto brutto parlare di classifiche su materie in cui la classificazione non è semplice. Comunque, siamo a Milano, la scuola media Monteverdi è risultata la migliore sotto il profilo dell'orientamento offerto agli studenti, scuola che è a poche centinaia di metri dalla redazione di Radio 24, quindi ospite in studio, l'abbiamo già presentata all'inizio di questo speciale, la prof Marina Ciavarella, che si occupa proprio di orientamento alla media Monteverdi. Allora, prof Ciavarella, cosa fate di così utile per aver ottenuto questo buon risultato? Cioè, risulta che coloro che hanno seguito il consiglio orientativo fornito dalla scuola, in qualche modo non si è pentito, ha avuto successo il primo anno delle superiori. Che cosa fate alla Monteverdi? Ma mi sembra che non facciamo nulla di speciale, così mi sembra. Sicuramente però... Forse a voi sembra che non sembra sia speciale, così. Però bisognerebbe vedere cosa fanno o non fanno nelle altre scuole. Beh, dunque, la prima cosa da dire è che se si è raggiunto questo risultato è anche perché le famiglie da noi evidentemente si fidano degli insegnanti, perché una scuola può formulare un giudizio, un consiglio orientativo, se però la famiglia non lo vuole seguire perché non si fida, perché magari non si riescono a raggiungere certi risultati. Quindi secondo me il primo dato è questo. Ma capita che ci siano famiglie, sì, come dire, riottose? Sì. Beh, sicuramente. Beh, dunque, prima di tutto perché noi diamo un consiglio e quindi poi la famiglia è sovrana e può decidere di fare diversamente, perché magari può valutare diversamente le capacità del proprio ragazzo, può pensare che potrà maturare, cambiare. Quindi tante volte però le famiglie hanno alcune volte delle aspettative magari troppo alte. Noi che vediamo questi ragazzi a scuola per 3 anni, tante ore al giorno, li conosciamo bene, quindi comunque diciamo: fidatevi un attimo di come noi vediamo i vostri ragazzi, perché li vediamo in azione davvero per tanto tempo. Ragazzi, a voi è stato già dato il consiglio orientativo? A me sì. Che dice? Devo dire che comunque è molto simile. Allora, noi ci hanno fatto scegliere prima noi quello che volevamo andare a vedere e poi loro hanno scelto, però hanno scelto comunque in base a quello che avevamo scelto noi, quindi non hanno scelto proprio loro. Cioè vi hanno chiesto voi cosa vorreste fare, tu avrai detto liceo artistico e ti hanno confermato no e mi hanno consigliato invece per andare a vedere un'altra scuola moda che è comunque simile, è simile all'artistico, e hanno fatto così un pochino con tutte le classi, cioè con tutti i ragazzi, quindi non è che hanno scelto proprio loro, hanno scelto in base alla nostra scelta. Certo, certo, hanno seguito un po' quali fossero le vostre richieste. E invece a scuola avete fatto qualcosa? Sì, abbiamo fatto la prof di lettere ci ha fatto fare alcuni percorsi e anche se secondo me non sono serviti a molto perché ecco aiuto. Però diciamo che sono utili in certi casi, cioè. Magari non è stato utile per te, ma per qualche tuo compagno potrebbe essere risultato più utile. Percorsi in che senso? Ci ha dato delle schede dove ti facevano delle domande, un questionario su quello che ti piace, delle crocette, poi dopo dovevi guardare i risultati e in base a quello che usciva c'era, diciamo, un test, sì, un vero e proprio test. Ok, Lorenzo, tu invece hai ricevuto il consiglio orientativo? No, non ancora. Non ancora. Ok, quindi in genere da noi verrà dato settimana prossima. Quindi ecco, non è ancora ora. Diceva, quindi la cosa virtuosa della vostra scuola è che probabilmente le famiglie si fidano di voi. Sì, sicuramente questo. E poi ecco, noi comunque facciamo l'orientamento non è qualcosa che si fa negli ultimi mesi prima a ridosso di dicembre perché dobbiamo scegliere, è un percorso che dalla prima viene svolto, perché è tutto il lavoro di, come dicevi tu, di autoconoscenza, devo capire le mie capacità, le mie possibilità, i miei interessi, tutto questo è un percorso che si fa durante i 3 anni delle medie, ecco, no? Ma si fa in che modo? Perché abbiamo visto che un ragazzo su 4, secondo quanto risulta da questa indagine di scuola.net in collaborazione con Radio 24, in realtà non ha ricevuto alcun tipo di orientamento. Insomma, come lo fate? Allora, quindi a parte questo percorso che ogni insegnante in ogni consiglio di classe si fa, per cui ogni ragazzo arriva ad avere una maggiore autoconsapevolezza delle proprie risorse, bisogni, sogni, eccetera, noi facciamo delle attività invece veramente concrete a ridosso dell'ottobre-novembre della terza media. E allora che cosa sono? La prima cosa che facciamo, noi organizziamo degli incontri in mattinate diverse con fasce diverse di istituti superiori. Allora facciamo la mattinata dei licei e quindi invitiamo un liceo scientifico, un classico, un linguistico, un artistico, un liceo delle scienze umane, che in un lasso di tempo, 20 minuti, devono presentarsi, spiegare quali sono le materie, le cose che loro richiedono agli studenti, vengono magari anche degli studenti stessi che raccontano la loro esperienza, quanto studiano, che cosa, che sbocchi hanno, quindi una mattina per i licei, una mattina chiamiamo gli istituti tecnici, una mattina gli istituti professionali e una mattina i centri di istruzione e formazione professionale, che sono un altro canale molto importante. Una cosa diversa, lo dicevamo, sì, che appunto l'offerta è davvero ricca. Sì, mm-hmm, sì. Vengono e raccontano un po' la loro scuola, esatto, e quindi si fanno un po' un'idea ai ragazzi. Esatto, quindi i ragazzi così hanno un po' un'idea. Perché magari ci sono quelli che in casa hanno un fratello grande, una sorella grande, ma ci sono anche quelli che magari sono completamente digiuni. Esatto, anche se poi noi insistiamo dicendo non dovete scegliere perché il fratello, l'amico, il cugino ha fatto quella scuola, ma dovete scegliere in base a quello che sembra più giusto per voi. Quindi questa è la prima cosa. L'altra cosa, noi ci avvaliamo anche del servizio, di una collaborazione con il servizio orientamento del Comune di Milano, il quale offre questo servizio a molte scuole di Milano, mandando degli esperti che fanno in seconda media, alla fine della seconda media e all'inizio della terza media, un intervento in classe in cui parlano delle varie scelte, dopo le possibilità di scelta dopo quindi la terza anche media. Loro danno un po' un'infarinata, sì, insomma raccontano che cosa c'è su Milano, esatto, che qual cosa è l'offerta c'è su Milano. Effettivamente c'è anche un sito interessante da guardare che è www.iter.mi.it www.radio24.it, in cui ci sono tutte le scuole. Miranda e Filippo di Radio Immaginari al telefono con noi. Ciao. Ciao Miranda da Castel Guelfo di Bologna, sì. Filippo da Sanremo. Miranda, tu hai già scelto? No, io sono ancora indecisa fra due scuole. Quali? Sì, perché ne sto vedendo talmente tante che sono, cioè, ho veramente tutte le scuole in testa e quindi... Una gran confusione. Esatto. Sì, a volte capita in effetti, perché le famiglie in questo periodo vedono tantissime scuole, portano, trascinano voi ragazzi di qua e di là e forse vi si riempie un po' la testa, no? Proprio così. Ecco, ma le scuole che hai visto, che impressione ti hanno fatto? Quali sono le cose che hai visto? Per prima cosa, in quasi tutte le scuole che ho visitato c'erano i professori che comunque presentavano la scuola e le materie principali, e dopo si spostava da tutt'altra parte dove c'erano degli studenti a cui potevi fare delle domande, e poi ovviamente ti portavano in giro per la scuola. E quindi mi è piaciuto molto questo tipo di presentazione nei licei che ho visto e anche negli altri istituti, perché proprio è bello, respiri proprio l'aria delle superiori e quindi è proprio una bella cosa, ti portano in giro, vedi. Io mi sono in quelle due scuole appunto tra cui sono ancora indecisa, proprio mi sono un sacco emozionata quando ho visto qui tutta la scuola. Che scuole sono? Classico, classico e il liceo delle scienze umane. Mm-hmm. Quindi sei portata per le materie umanistiche, esatto, piacciono? Sì. Ok. Filippo da Sanremo, tu invece che cosa hai visto? Già qualche scuola? Hai già qualche idea? Sì, diciamo che sto seguendo la scia di Miranda, perché anch'io vorrei fare il liceo classico, ma sono abbastanza concentrato su quello e non ho altre preferenze. Quindi sei già abbastanza sicuro di questo e ne hai già visti? Che impressione ti hanno fatto, se le hai già visti? Direi che qua a Sanremo una scuola di ce n'è una sola. Mm-hmm. Sì, è il Cassini, che presenta vari istituti e varie tipologie di scuole. Certo, ma nella tua scuola, nelle tue medie, che cosa avete fatto? Ti hanno già dato dei consigli utili? Diciamo che i professori non riservano tempo le loro ore di insegnamento indirizzarci, però non hanno tempo, perché il programma bisogna andare avanti, no? Questi professori sono fissati con questo programma, a volte forse è meglio fermarsi un attimo e fare cose altrettanto importanti. Invece hanno fretta i tuoi prof? Sì, però anche è vero che due settimane fa siamo andati al Salone dell'Orientamento, che tutti gli anni c'è qua a Sanremo, c'erano dei ragazzi di ogni scuola di Sanremo e di Imperia, dove appunto potevi andare a vedere il liceo classico, scientifico, la scuola alberghiera e decidere un po'. Anche se secondo me, a mio parere, io ero già deciso, però alcuni miei amici che magari non si sono ancora orientati non gli ha aiutato niente, sono rimasti confusi come erano prima, insomma. Sì, perché magari i ragazzi hanno spiegato bene cosa si fa, però spiegano solo le ore dedicate a una materia invece di quelle dedicate a un'altra, ma forse a noi servirebbe più cosa si fa durante la giornata. E quello che bisogna fare a casa, La mole di lavoro, la mole di studio, quanto queste informazioni sarebbero più utili. Filippo, ci fermiamo per qualche istante per una breve pausa, poi torniamo insieme. Scuola, quale scelta per i nostri figli? In fondo lo sapevo già dal primo istante che l'ho vista, dalla felicità, perché la vita è un grande artista, metti via un sorriso, un piccolo sorriso al giorno, tienili, dicevo, conservali per quando torno. Lo sapevo già dal cuore in gola, a sentir la sua prima parola, a vederla sola corda al vento, traballare dentro un cielo spento, lettera d'amore, alba che non ha un tramonto, ma è un tramonto all'alba di due colori che confondo. Ce l'ho avuta sempre addosso questo lungo addio, questo lasciarla indietro e non lasciarla mai. Bello è percorrere la strada di un ragazzo dai 13 ai 18 anni. Quelli sono gli anni di grande formazione di un ragazzo. Devono avere degli insegnanti capaci, non soltanto nella propria materia, ma capaci di intendere dove possono spingere e dove invece bisogna frenare. I momenti topici di un ragazzo, i momenti belli, i momenti brutti, essere anche un po' psicologi naturalmente, credere, fare questo in, cioè, certo certe materie sono anche un po' difficili, la matematica non è semplice, allo stesso greco, latino non sono semplici, però si può sempre trovare il modo di firmare un armistizio col ragazzo, dire tu questo, io questo, vediamo come arriviamo a metà di questa strada. Perché chi quegli anni li butta via, ha buttato via tutta la vita, secondo me. Il ragazzo che butta via i 5-6 anni che vanno dal prima liceo alla quinta, o dal ginnasio al liceo, insomma, ha buttato via tantissimo. Per riprendersi ci vogliono tanti e tanti altri anni. Questo lasciarla indietro e non lasciarla mai. Un'altalena a dondolare come un pendolo tra quei due attimi che siamo io e lei. L'avrete sicuramente riconosciuto, Roberto Vecchioni con il suo ultimo disco, grazie a Marta Cagnola che lo ha intervistato e gli ha un po' chiesto anche qual è il suo rapporto con la scuola, perché lo ricordiamo, lui è un insegnante un po' speciale. Ci diceva che gli insegnanti, i docenti devono essere un po' psicologi, perché oltre che dare delle nozioni, insomma insegnare quindi la loro materia, devono anche un po' tirarli fuori questi ragazzi. In realtà lui si riferiva agli anni delle superiori, però insomma siamo vicini agli anni di cui stiamo parlando adesso. Prof. Ciavarella, dovete essere anche un po' psicologi in questo momento, eh? Sempre un insegnante è anche un po' psicologo e deve essere appassionato dei ragazzi, altrimenti non può fare l'insegnante. Certamente, meglio che cambi lavoro. Esatto. Sono d'accordo. E noi adesso ci facciamo una bella chiacchierata con un altro insegnante speciale, non è Vecchioni ma è Marco Ferrari, che è il vicepreside del liceo Malpighi di Bologna, che salutiamo. Ciao Marco. Salve a tutti. Allora, perché dico che è un prof speciale? Perché è uno dei finalisti dell'Oscar degli insegnanti, che è una nuova istituzione, anche questa della Giannini. Il Nobel per l'insegnamento c'è già da qualche anno a livello internazionale, da quest'anno c'è anche in Italia. E Marco Ferrari è uno dei 50 finalisti. Complimenti. Grazie. Allora, che cosa di tanto speciale per essere arrivato in finale di questo Oscar degli insegnanti? Forse l'unica cosa di speciale è stata la tenacia nell'andare dietro al desiderio di conoscenza e di approfondimento delle mie materie e di portare i miei allievi alla bellezza della ricerca storica e filosofica, perché insegnando mi sono accorto che da soli è più brutto e più difficile farlo. Ho cercato colleghi disponibili e da qui sono nati dei webinar, cioè dei corsi di formazione online per docenti, è nato un concorso nazionale di filosofia per studenti delle superiori che si chiama Romane Disputazione, che ogni anno porta a Roma più di 1000 studenti, sono nate tante altre cose, tra cui la mia collaborazione al TEDx Youth di Bologna di quest'anno, in cui i giovani hanno potuto a far vedere le loro capacità dialettiche e di public speaking. È nato tutto un lavoro con colleghi, istituzioni ed enti nel quale lo scopo principale era far vedere ai ragazzi che il percorso dello studio, della conoscenza è la cosa che dà più soddisfazione. Assolutamente, assolutamente. Ferrari, lei li vede arrivare questi ragazzi dalla terza media, per tornare al tema del nostro speciale, li vede arrivare qualcuno forse avrà sbagliato, vi accorgete a un certo punto e lui stesso si accorgerà che ha sbagliato, insomma, visto che ne vede arrivare tanti e forse qualche errore si può evitare, qual è il consiglio che vuole dare ai ragazzi, alle loro famiglie che in questo momento sono chiamati a fare questa scelta, la scelta delle superiori? Guarda, il consiglio che io do, come hanno detto alcuni ragazzi prima, è di andare fisicamente nelle scuole e guardare negli occhi i docenti, guardare negli occhi i ragazzi che frequentano quella scuola, in seconda battuta guardare i laboratori, le aule, in terza battuta guardare i bagni, per capire se c'è un clima positivo nella scuola. Anche in bagno. Poi, anche il bagno è importante. E poi da lì aprire l'orizzonte ai progetti, perché una scuola buona oggi è una scuola che introduce i ragazzi nel mondo, ma nel mondo vero. Quindi non solo la città dove si vive, ma la nazione, l'Europa e tutto quello che da lì ne viene. Quindi detto sicuramente questo, andare a vedere le scuole, anche se ci raccontava prima uno dei ragazzi di Radio Immaginaria che a volte ne vedono pure troppe e si confondono anche di più. C'è un limite, c'è un consiglio. Forse io ho pensato una cosa con la mia figlia grande, parlo di me, sì. Ne ho viste parecchie io, ho fatto una prima scrematura e poi ho portato mia figlia a vederne tre o quattro, perché veramente se arriviamo a un numero di 10, poveri ragazzini non ci capiscono più niente, o no? Può essere una buona idea? Sicuramente, perché a 13 anni un ragazzino deve ancora conoscersi e scoprirsi, conoscere i talenti e non ancora i criteri formati per giudicare del tutto il percorso che lo aspetta. Il genitore ha una funzione fondamentale, una mamma che è venuta al liceo Malpighi al nostro Open Day, guardandomi negli occhi mi ha chiesto: ma vi prenderete cura di mia figlia? Cioè, ho visto i laboratori bellissimi, ho visto il clima fantastico, ma mi dica, qui vi prendete davvero cura di mia figlia? Io mi sono sentito di dirle: certo signora, per me, per i miei colleghi, ci metto le mani sul fuoco. Il primo desiderio di un genitore è sapere se l'interlocutore ha davvero strumenti e desiderio di prendersi cura, cioè di voler bene, di far crescere il ragazzo. Quindi un altro dimensioni. Consiglio che si può dare ai genitori è quello di andare a vedere le scuole e non controllare solo se ci sono i laboratori, i computer, attrezzature all'avanguardia, ma se c'è un corpo insegnante che si prende cura dei ragazzi. Questo è importante. Noi abbiamo aperto la scuola, oltre che per l'Open Day, dove ci sono le aule, i percorsi, il teatro, anche dei pomeriggi durante l'autunno, perché i genitori possono venire a chiacchierare con noi, con me, con la preside, con gli altri colleghi, e toccare con mano se il clima di lavoro, il clima umano, il clima di studio della scuola è davvero quello che si dice. Poi l'altra cosa molto semplice è tanto buon senso e tantissimo dialogo. Dialogo in famiglia tra i genitori e i ragazzini, dialogo aperto e soprattutto attento a non uccidere i desideri, perché nei ragazzini c'è una competenza naturale di riconoscere ciò che fa per sé, che non può essere soffocato da un genitore. Il genitore deve essere bravo ad ascoltare e far emergere la verità che c'è nel ragazzo. Certo. Ferrari, un altro aspetto importante, visto che lei insegna al liceo e quindi dopo che la scelta è già stata fatta, qualora si dovesse scoprire nei primi mesi, diciamo nel primo quadrimestre, prima di Natale, diciamo, che quella scelta non è stata forse la più giusta per tantissime ragioni, può capitare, no? Di fare la scelta sbagliata, non è una tragedia. Io vorrei dare anche questo messaggio: non è la scelta, diciamo, definitiva della propria vita, dopodiché ci si rovina per 5 anni, c'è sempre modo di aggiustare il tiro. Assolutamente, per noi la scuola dove insegno e nella mia esperienza è il luogo in cui il ragazzo è introdotto alla vita, alla realtà totale. In questo senso, nel percorso della vita, le scelte sbagliate, i percorsi interrotti ce ne sono, bisogna guardarli, dialogarli insieme con molta serenità, con i piedi per terra, e alla fine del primo anno, o soprattutto forse ancora meglio alla fine del biennio, quando ci si è dati un percorso adeguato per verificare le capacità del ragazzo e le sue attitudini, a quel punto si può riorientare la famiglia, ma nel dialogo con i docenti, con la preside, con la scuola, perché la cosa più terribile è quando la famiglia è lasciata sola. Soprattutto con il ragazzino, ho tante mamme, tante situazioni in cui vedo molta difficoltà di comprendere e di relazionarsi con i propri figli. In questo senso la scuola può essere un ottimo interlocutore con cui fare i conti, ma farli fino in fondo. Quindi, assolutamente, come diceva la professoressa, ci vuole fiducia. Ci vuole fiducia. Diletta, hai ascoltato il professor Ferrari, che ne pensi? È vero che insomma anche voi badate un po' all'aspetto non soltanto esteriore della scuola, insomma il fatto che ci siano tante attrezzature, ma avete parlato anche con i professori per capire se siete entrati un po' in sintonia? Allora, con i professori non è che ho parlato molto, perché comunque io ne ho visti due o tre, però devo dire che comunque sono loro che parlano a noi, quindi più o meno, cioè, capisci come una persona, però magari a volte ci sono quei prof che fanno i buoni magari quando vengono i bambini a vedere, e quindi non si sa se fidarsi o meno, però può anche essere qualcuno che... Mai fidarsi dei professori che vengono a chiedervi di andare nella loro scuola. Invece, Lorenzo, volevo capire anche le vostre famiglie. In questo periodo state vivendo un brutto momento, ne state parlando molto. I tuoi genitori ti caricano di un po' di ansia su questa scelta? Allora, i miei genitori sì, comunque ne parliamo molto spesso a cena quando li vedo. Però no, devo dire che sì, mi mettono un po' di ansia, però mi lasciano pensare, mi lasciano fare a me, insomma. Sei fortunato. Ovviamente anche loro influiscono nella mia decisione, però... Loro cosa vorrebbero che tu facessi? La mia mamma è linguistico. Ah, quindi... Anche perché anche lei ha fatto il Manzoni. Sei in sintonia. E mio papà ha detto anche lui il linguistico, però gli piacerebbe molto il Moreschi, quindi l'economico. Quindi non si litiga a cena? No. Voi non litigate? Voi litigate, Diletta, a cena su questa scelta? Mio papà è un pochino contrario sulla mia scelta. Eccolo là. Però invece mia mamma dice che mi vuole far scegliere a me, quindi... Ma media poi... fra voi due, sì. Fra voi due. Cosa vorrebbe che tu facessi tuo padre? Ostanga, che è... non mi ricordo come si chiama il nome. Un liceo, un istituto tecnico, più sì, o meno? È agraria. Ecco. Agraria, così. Forse sì. L'ha fatta lui? No. No, ma a volte non so neanche se scherza, perché non so anche per darmi fastidio continuo a dire questo nome, però io faccio la mia scelta. Ok, ci fermiamo ancora per qualche istante e poi torniamo insieme e continuiamo a parlare di scelta delle scuole superiori. Scuola, quale scelta per i nostri figli? Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie mi manchi veramente troppo ancora. Ho passato tutto il giorno a ricordarti nella canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me, e lo so io ma anche te. Allora, l'abbiamo sentito, tanti dubbi dei ragazzi chiamati a questa scelta davvero non facile. Allora, si fanno trascinare dalle mamme, dai papà, l'abbiamo sentito, soprattutto dalle mamme in realtà, però insomma anche qualche papà si fa vedere agli open day, si sottopongono ai test, fanno i colloqui, insomma fanno tutto ciò che c'è da fare questi ragazzini, eppure per molti la scelta resta dura lo stesso. Allora, forse la cosa migliore non è guardare al di fuori, ma è guardare dentro se stessi, è così, Fiorella Pallas? Sacrosanta verità. Fiorella Pallas, che abbiamo invitato qui, è una talent coach. Innanzitutto, che cos'è una talent coach, Fiorella? Allora, vuol dire che mi sono specializzata nella scoperta e l'allenamento dei talenti umani, e quindi aiuto giovani, aiuto imprenditori, aiuto aziende a scoprire e allenare i propri talenti per fare la differenza nei loro momenti che contano. E questo è un momento che conta, quello della scelta delle scuole superiori, per cui tiriamo fuori anche i talenti di questi ragazzi, cosa che immagino non sia poi così semplice. Allora, che consiglio vogliamo dare? Intanto, Fiorella, ti chiedo, ma sono consigli che diamo ai genitori o che diamo ai ragazzi? Ma Allora, mi piacerebbe innanzitutto dare dei consigli direttamente ai ragazzi. Cominciamo dai ragazzi, allora, che sono poi i protagonisti di questa scelta. Allora, se proprio non ne vengono a capo, nel senso che hanno fatto gli open day, hanno visto le scuole, però gli piace un po' la matematica, però insomma in fondo anche l'italiano vanno benino, quindi liceo scientifico oppure liceo artistico, però sono bravi anche nelle attività più pratiche, quindi l'istituto tecnico, perché no, ce n'è uno vicino casa magari che non è niente male. Allora, che cosa fare per guardarsi dentro e per scoprire il proprio talento? La prima cosa è guarda nel tuo passato. Guarda negli ultimi 3 anni, e dico 3 anni perché magari in alcuni casi un anno una materia non è andata bene perché non c'era una buona relazione con il prof, però quali sono state le materie che ti hanno interessato di più? Non solo dove hai avuto migliori voti, ma quello dove ti divertiva proprio studiare, cioè ti appassionava studiare quella materia. Dopo fate semplicemente questa domanda: in cosa pensi che io sia veramente bravo? Di farlo ai prof, ai genitori, agli zii, a parenti, prendere una decina di persone e cominciare a chiedergli: ma in cosa io sono veramente bravo? Persone magari di cui ci si fida particolarmente, persone, no? Persone che ci conoscono. Quindi osservare il passato, fare un bilancio, fare queste piccole interviste ai genitori, a coloro che ci conoscono bene, per capire quali sono le cose in cui siamo bravi. Poi che altro possiamo dire in sintesi? Quindi è importante realmente capire quali sono le inclinazioni naturali di nostro figlio, e noi possiamo realmente cercare di dare il massimo, di raggiungere l'eccellenza solo se ciò che realmente faremo un domani ci appassiona totalmente. Grazie. Perché Fiorella, grazie. Questo è il consiglio davvero più importante che potevi offrire ai nostri ascoltatori e ai nostri ragazzi. Grazie Fiorella. Grazie a voi. Allora, dalla Talent Coach abbiamo capito che può essere tra l'altro la conclusione adatta di questo speciale, che bisogna fare ciò che ci appassiona, perché se facciamo ciò che ci appassiona sicuramente saremo bravi a farlo e sicuramente saremo più felici. Diletta, allora, a te ti appassiona l'arte e il disegno, quindi pensi che in quella scuola potresti non avere difficoltà e soprattutto potresti trascorrere 5 anni sereni. Sì, e poi una cosa che mi piace molto dell'artistico è che ci sono personaggi veramente molto strani nella scuola. Originali. Sì, e quindi tu non vieni giudicata per magari come ti vesti, come i capelli, perché sei libero all'artistico, comunque ci vanno le persone un po' strane, quelle che hanno un po' dell'artista dentro, e quindi ci sono anche dei ragazzi molto strani. Invece alle medie spesso ci sono quelle ragazzine che criticano come ti vesti e queste cose qui. È vero, questo è molto importante, brava, secondo me devi andare all'artistico perché ti ci vedo proprio bene. Daniele Grassucci, ti abbiamo abbandonato a te stesso, sei ancora lì? Assolutamente. Allora, tu hai sentito, vuoi aggiungere qualcosa? Perché insomma siamo ormai arrivati a conclusione. Guardarsi dentro, ha detto la nostra talent coach, andare a vedere tantissime scuole, ci diceva il vicepreside del Malpighi di Bologna. La prof Ciavarella ci ha raccontato, tra l'altro non ha finito, io voglio ancora capire in questa scuola che altro si fa, perché io lo so che fate anche delle altre bellissime cose. Tu Daniele, che altro consiglio vuoi dare ai nostri ascoltatori, alle nostre mamme e papà un po' in ansia? Sono tutti consigli molto validi e vanno tutti seguiti simultaneamente, perché sono tutti aspetti importanti. Io quello che cercherei di fare è anche di dare uno sguardo a quello che è il mercato del lavoro, non tanto il mercato del lavoro di oggi, ma a quello che potrebbe essere tra 10 anni, 15 anni, magari andare a vedere ce ne sono degli studi sulle nuove professioni, o comunque sulle professioni che oggi vanno bene e che potrebbero andare bene ancora tra qualche anno, e capire come le passioni, gli interessi, le scuole che si hanno vicino, che si possono frequentare, si possono intrecciare con le possibili opportunità di lavoro. Un occhio dunque al mercato del lavoro, come ci suggerisce il nostro Daniele Grassucci. Ora con noi invece un altro prof speciale. Sentiamo i consigli dello scrittore ed insegnante Alessandro D'Avenia. Lo ha intervistato proprio per noi, per il nostro speciale, Alessandra Tedesco. Allora, Alessandro D'Avenia, tu da insegnante, sì, insomma, di lettere in un liceo milanese. Adesso c'è la solita questione, aiutare i ragazzi a fare una scelta, no? Chi viene fuori dalle scuole medie deve decidere che cosa fare. Tu che consiglio riusciresti a dare in questo momento di confusione anche per i genitori? Io dico sempre di chiedere a un ragazzo un po' di più di quello che può dare. Quindi di non assecondare eccessivamente le richieste dei ragazzi, che a volte sono dettate semplicemente dal fatto che i propri amici vanno verso un certo indirizzo e possono tendere un po' al ribasso. Non bastano i test che i ragazzi fanno all'ultimo anno e quindi non affidiamoci del tutto a quelli. Quello che bastano invece sono gli insegnanti, quindi direi ai genitori di andarsi a fare una bella chiacchierata con gli insegnanti di cui si fidano di più, che conoscono bene il figlio, e chiedere loro, che hanno esperienza, verso dove vedono che si possa orientare il talento, le capacità, oppure le debolezze, i punti da rafforzare per ogni ragazzo. Quindi, come sempre, riporto il discorso educativo alla sua centralità. Non sono i test che possono dire a un ragazzo. Racconto questo episodio. Un ragazzo che, dopo un incontro che avevo tenuto relativamente ai miei libri, è venuto da me dicendomi: ma lei ha parlato di tutte queste cose del mondo antico, io faccio il primo anno del tecnico e faccio il primo anno del tecnico perché in famiglia mia tutti hanno fatto questo e mi sembrava la cosa più normale, però mi rendo conto che mi manca qualche cosa. Lei che cosa mi consiglia? Posso intraprendere questa follia di passare al classico? Io ho detto: se tu hai le capacità, certo che devi farlo. Questo ragazzo ha recuperato il programma di latino e di greco durante l'estate e quindi ha fatto l'esame integrativo e si è potuto iscrivere direttamente al secondo anno e adesso è contentissimo di fare il classico. Quindi i ragazzi vanno sfidati e non invece coccolati, come a volte facciamo. Ciavarella, allora torniamo a Monteverdi, perché ci interessava capire cosa fate e soprattutto qual è il motivo del vostro successo. Dicevamo di questo percorso, che altro prevede? Allora, in particolare cerchiamo di aiutare quella fascia di ragazzi che sono più in difficoltà, perché anche qui in questa trasmissione abbiamo sentito parlare di liceo, artistico, classico, linguistico, come se le uniche scuole conosciute, gli unici sbocchi dopo la terza media possano essere i licei, al massimo gli istituti tecnici, e poi c'è questa tendenza a pensare via via scendo e vado agli istituti professionali, istruzione, formazione professionale. Ha usato una buona parola, ascendere, perché esatto. Le scuole, la sensazione è che i più bravi li mandino esatto. ai licei, quelli un po' così svegli ma non studiosissimi agli istituti tecnici, i somarelli ai professionali, esatto. Ma è giusta questa classificazione? È proprio sbagliata, perché in questo modo si spingono gli alunni più indecisi ad andare verso scuole in cui magari non si riconoscono, per le quali non sono adatti. E, invece noi cerchiamo di far capire che c'è il ragazzo che non è capace magari di stare attento, di stare concentrato, di stare fermo, però non è che per questo è più scemo degli altri, però ha delle possibilità diverse, ha delle capacità di studio che sono diverse rispetto al compagno che è capace di stare magari delle ore sullo stesso argomento e approfondirlo. Questi ragazzi possono avere dei percorsi alternativi validissimi che sono adatti a loro e non per questo meno belli, meno gratificanti, meno importanti. E quindi le famose scuole di serie B non esistono, scuole di esatto, serie B, questo le famiglie esatto. davvero se lo devono mettere bene e in anzi, testa. A Milano abbiamo questi centri di istruzione e formazione professionale che sono veramente bellissimi. Tanti insegnanti, tanti miei colleghi addirittura non li conoscono e tante persone non li conoscono. Bisognerebbe andare a vederli. Sono ricchissime di laboratori, danno un modo ai ragazzi di apprendere più pratico, è più consono a loro e ti orientano veramente verso il mondo del lavoro. Allora, siamo arrivati a conclusione di questa puntata speciale. Speriamo di avervi dato qualche consiglio utile per fare una scelta un po' più consapevole e anche un pochino più serena. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, a cominciare da quelli qui in studio, ragazzi di Radio Immaginaria. Radio Immaginaria è una realtà bellissima, Diletta? Sì, è l'unica radio di adolescenti in tutta Europa dagli 11 ai 17 anni, e se qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento, che è tra gli 11 e i 17 anni, che è interessato, può trovarci praticamente ovunque, cioè vabbè, magari ovunque no, però per esempio su Instagram basta che cerchi Radio Immaginaria, poi su Twitter @immaginaria. E poi vi vedo che seguite tutti gli avvenimenti importanti, siete davvero bravi. Grazie. Allora, grazie ai ragazzi di Radio Immaginaria, quelli che sono qui, quelli che ci hanno aiutato al telefono. Grazie al nostro amico Daniele Grassucci di Scuola.net. Ciao Daniele. Grazie a te, Piera, alla per prossima. Questo servizio. Alla prossima. Ciao a Marina Ciavarella, qui in studio con noi della Scuola Monteverdi, a Marco Ferrari, vicepreside del Liceo Malpighi, un prof da Oscar, in bocca al lupo per questa sua avventura. Vi ricordo che potete riascoltare questo speciale sul nostro sito radio24.it, dove trovate tra l'altro una pagina tutta dedicata all'orientamento per i ragazzi che devono scegliere appunto la scuola superiore, la secondaria di secondo grado. Abbiamo raccolto i consigli di tantissimi esperti che vi aiuteranno nella scelta, quindi li potete riascoltare. Buon anno a tutti e buona scelta.